24 di Giovanni Minoli. Please allow me to introduce myself. Lo Yemen sprofonda nell'abisso della guerra civile, aprendo un altro drammatico fronte della guerra intestina globale tra le fazioni islamiche degli sciiti e quelle sunnite. L'intervento militare lanciato dall'Arabia Saudita e dai suoi alleati sunniti aumenta infatti il rischio di un conflitto fra il regno wahabita e Teheran, la principale potenza sciita nella regione. La guerra in corso da 8 mesi ha provocato 5.700 morti, almeno 830 tra donne e bambini, 20.000 feriti, oltre 1 milione di sfollati. Sono stati ritrovati nei luoghi colpiti da bombardamenti dell'aviazione saudita le stesse bombe prodotte dall'RWM e partite dalla Sardegna. Non si potrebbero trasportare armamenti verso paesi in stato di conflitto armato. Sto leggendo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 185 del 90. Allora, buongiorno ambasciatore Sergio Romano. Insomma, non siamo in guerra, ma le nostre bombe sono in guerra. Le bombe, quando vengono fabbricate da qualche parte, vengono usate, e questo lo sappiamo da molto tempo e facciamo molta fatica a impedirlo, perché sono un bene commerciale. Là dove si combatte naturalmente sono una merce utile e importante, quindi sì, bisogna certamente essere più severi, più attenti, ma qualche cosa ci scapperà sempre. Senta, ambasciatore Romano, ma la guerra in Yemen dell'Arabia Saudita nasce in nome di cosa, in due parole? Ma, vedi, anzitutto lo Yemen è uno Stato che si è diviso più volte, due repubbliche nel corso degli anni Ottanta, poi l'unificazione nel 1990, ma ha una posizione strategica straordinaria. Basta dare un'occhiata alla carta, è fra il Golfo di Aden e il Mar Rosso, quindi controlla una delle vie d'acqua più importanti, soprattutto per il petrolio, ma non soltanto. Ma quali sono le parti in campo esattamente? Ma è una vera e propria guerra civile che assomiglia per molti aspetti alla guerra civile siriana. Anzitutto c'è una componente sunnita importante, che è quella che è stata per molto tempo la parte dominante della penisola yemenita, ma poi ci sono gli Houthi, i quali sono sciiti, ed essendo sciiti e per di più confinanti con l'Iran, apparentemente vengono utilizzati dall'Iran per avere un'influenza nella regione. Ma Yemen confina anche con l'Arabia Saudita, e l'Arabia Saudita ha molto interesse ad evitare che gli Houthi sciiti diventino l'etnia dominante del paese, anche perché nell'Arabia Saudita, al confine con lo Yemen, guarda caso, c'è una minoranza importante di sciiti che potrebbe essere in qualche modo attivata, certo, dagli Houthi. No, voglio dire che a questo punto diventa veramente difficile stabilire quali sono i fronti di questa guerra civile. Ma perché gli Stati Uniti sostengono l'Arabia Saudita in Yemen? Credo che sostengano l'Arabia Saudita un po' perché naturalmente gli Houthi sono difesi dall'Iran, e l'Iran è stato per molto tempo il nemico degli Stati Uniti. Ma non lo è più, però. Ma non lo è più, ma le vecchie abitudini sono dure a morire, anche perché queste decisioni vengono prese non sempre, non necessariamente dal Presidente degli Stati Uniti, ma all'interno di servizi o gruppi dirigenti degli ambienti militari che in qualche modo obbediscono alle loro vecchie abitudini. Ecco, adesso però l'Arabia Saudita, che come noto finanzia l'ISIS, anche l'ISIS, ha costituito una coalizione di 37 stati per combattere il terrorismo. Ma che credibilità ha l'Arabia Saudita in questa lotta? Non molte, ma il fatto che abbia accettato di costituire questa coalizione e di esserne la guida vuol dire che è diventata consapevole del fatto che i suoi rapporti ambigui con il terrorismo, soprattutto dell'ISIS, stanno in qualche modo incidendo sulla sua credibilità e sulla sua immagine internazionale. Ecco. Adesso vedremo naturalmente se a queste dichiarazioni corrisponderanno. Infatti, ecco, però in ogni caso nella lotta all'ISIS fatta dall'Arabia Saudita non sono coinvolti l'Iran e la Siria, e ha senso, insomma, cioè ambiguità molto complesse da capire. Sì, beh, l'Iran lo ha spiegato, ha detto che l'Arabia Saudita non è credibile, questo non lo dice appunto, naturalmente soltanto l'Iran. Quindi non bisogna dimenticare che l'Arabia Saudita è il più anomalo degli stati, anzitutto. Certo. Esiste in quanto il sovrano è custode dei luoghi sacri, quindi, come dire, la legittimità dell'Arabia Saudita è una legittimità è la Mecca. Religiosa, teologica. La Mecca e la Medina, naturalmente. Certo. Quindi è una legittimità religiosa. In altre parole, intanto governa in quanto dà garanzie di essere custode e difensore della fede. Dopodiché, naturalmente, assistiamo a una situazione totalmente paradossale, per cui la legge coranica è applicata lì, sì, in quel caso quasi integralmente, e questo certamente non è caratteristico di uno Stato che dovrebbe essere moderno. Certo, ma ambasciatore Romano, le faccio una domanda che sembra una bestemmia, ma si riuscirà mai a vedere uniti sciiti e sunniti contro il terrorismo? Anzitutto, sciiti e sunniti per molto tempo non furono poi così divisi come lo sono oggi. Vede, quello che è successo è che in quella regione sono falliti due grandi processi. Il processo di secolarizzazione, che era cominciato alla fine della Grande Guerra e poi dopo la Seconda Guerra Mondiale, è fallito in quasi tutti i paesi arabi musulmani. E poi è fallito anche l'imperialismo americano, perché non dimentichiamo che gli Stati Uniti hanno fatto una guerra all'Iraq nel 2003 che non è stata vinta, e qualcuno sostiene persino che è stata perduta. E in quella situazione, in quel vuoto di potere, in quel vuoto di progetti modernizzatori o imperiali come quello americano, è venuto fuori di tutto. Certo, infatti, è quello che vediamo adesso. Sì, ed ecco. È tornato fuori tutto ciò che nell'Islam poteva essere motivo di dissenso, di fazioni. Certo. Insomma, è come se fra protestanti e cattolici improvvisamente, venendo a mancare il processo che aveva in qualche modo chiuso le guerre di religione, scoppiasse di nuovo una guerra di religione. Senta, ambasciatore, intanto, per tentare una soluzione al problema siriano e al ruolo di Assad, a Mosca i ministri degli esteri russo, americano, Lavrov e Kerry, ieri l'altro giorno, si sono incontrati. Vede uno spiraglio per la soluzione siriana oppure no? Perché senza quell'accordo non può capitare nulla. Vede, sì, certamente lo spiraglio lo vedo, ma quando si vedono le cose che si desiderano, e quello bisogna stare molto attenti, perché qualche volta si è ingannati dai propri desideri. Quello che io vedo invece è una spaccatura sempre più visibile all'interno della dirigenza americana, perché vi sono gruppi che muovono in una direzione, come certamente Kerry, ma ve ne sono altri i quali invece hanno obiettivi totalmente e completamente diversi. E il risultato è naturalmente che mentre Kerry incontra Lavrov, una parte della stampa americana, una parte del congresso sostengono che la Russia in realtà è totalmente inaffidabile. Quindi perché colpisce soprattutto i nemici di Assad e non l'ISIS, eccetera, eccetera. Perché è il dramma del fine mandato, insomma. È il dramma del fine mandato, forse anche di un personaggio che è certamente di grandi qualità, di grandi virtù, ma anche per molti aspetti incerto, debole e un po' amletico. Soprattutto in politica estera. Soprattutto in politica estera. Ecco, restando ancora e chiudendo sulla scacchiera, spostandoci in Libia, la conferenza di Roma che ha portato all'ipotesi di riunificazione dei due governi in campo. È percorribile o è anche quella qualcosa che è destinato a restare sulla carta? Beh, siamo obbligati a percorrerla, e a questo punto lì sì, forse uno spiraglio di luce c'è. C'è. Anche perché vede, il problema della Libia è l'esistenza di una straordinaria potenziale ricchezza. Io spero per esempio che a un certo punto nelle fazioni prevalga il concetto che se ci mettiamo d'accordo diventiamo ricchi, ecco, tutti. Ecco. E quello forse sarà il momento dell'entrata in guerra contro il terrorismo dell'Italia? Ma l'Italia non credo che voglia entrare in guerra, e francamente spero che non voglia entrare in guerra. Sembra il governo, sembra che Renzi, mi pare che sia abbastanza lineare su questa posizione, no? Sì, è stato certamente molto chiaro. Io spero che non voglia entrare in guerra, come lo spero per gli altri, del resto intendo con truppe sul terreno. Certo. Perché se mandassimo truppe sul terreno faremmo un piacere straordinario, faremmo un favore all'ISIS, perché lo aiuteremmo a collocarsi nel mondo musulmano come l'unica forza capace di tenere testa all'Occidente, e questo lo renderebbe ancora più potente, più, come dire, più ammirato, più stimato. E questo è un regalo che non gli dobbiamo fare. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Allora entriamo dentro la notizia. Mix 24, dentro la notizia. Dunque una guerra dimenticata che non occupa le prime pagine dei giornali, quella in Yemen, con l'Arabia Saudita che ha condotto una guerra durissima, e con gli Stati Uniti che continuano a vendere all'Arabia Saudita armi. All'Arabia Saudita, stato che fiancheggia l'ISIS. Ecco, Mario, una domanda ingenua. Ma come può Obama, che è premio Nobel per la pace, continuare a vendere armi all'Arabia Saudita che sostiene l'ISIS? Questa è la domanda, no? Che ha tutto un profilo etico. Sai che io sono un realista, però in questo caso mi spiace, ma Obama, quando accettò il Nobel, insomma, ci sono delle conseguenze quando si accettano delle cose. Ci dovrebbero essere. E soprattutto, cioè, loro vendono 1,3 miliardi di dollari di armi, adesso il Congresso decide. Però è già stata autorizzata questa vendita, di cui le famose smart bomb. Ora, non è che le bombe sono intelligenti, sono più precise, diciamo. Però in Yemen, che è una guerra totalmente dimenticata da tutti, da marzo cioè, la catastrofe umanitaria, certo. Parliamo di migliaia di morti civili, ci sono oltre 5.000 feriti, 2 milioni di persone che sono in fuga dalle loro case, 170.000 che hanno lasciato il paese, solo per snocciolarne alcune. Sì. Sono i rapporti delle Nazioni Unite, non è che cito qualche fonte diciamo esoterica. E in più appunto c'è la presenza dell'Arabia Saudita, che adesso ha costituito questa coalizione anti-ISIS, stati, eccetera. In realtà, come sempre, c'è dietro ben altro, e i sauditi fanno questa politica assolutamente ambigua, non solo dal punto di vista delle cosiddette relazioni internazionali, diciamo classiche, ma anche col prezzo del petrolio, come abbiamo visto. Naturalmente lo stiamo vedendo. Ecco, Pietrangelo, allora, no? Pietrangelo, questo ruolo dell'Arabia Saudita sempre più ambiguo, perché questa doppiezza? Un po' Romano ce l'ha spiegata, però insomma, cosa ci si può aspettare? Romano ce l'ha spiegata ed ha chiarito bene. E la doppiezza deriva dall'ambiguità, dal patrocinio tutto occidentalista, e dico apposta occidentalista perché c'è una chiave ideologica nel sostenere il ruolo dell'Arabia Saudita, certo, nel difficile e delicato equilibrio nel grande gioco delle nazioni. E a questo punto vorrei dare una notizia che nessun giornale occidentale ha dato. E cioè? È successo 2 giorni fa ed è successo in Nigeria, dove l'esercito ha attaccato una cerimonia religiosa a Zaira, provocando la morte di 300 persone. Era una cerimonia religiosa della Hussein Bakhtillah. È stato sequestrato al-Zakazi, che è diciamo la guida di questo movimento religioso, e nessuno ne ha dato notizia, proprio perché la Nigeria si trova al centro di un delicato equilibrio che coinvolge ancora una volta la questione drammatica e la tragedia che si consuma all'interno della comunità islamica, dove il ruolo dell'Arabia Saudita è centrale. Figurati che alla manifestazione di Al-Quds a favore della Palestina Ancora una volta c'erano stati degli scontri, ancora una volta c'erano stati dei morti e ancora una volta l'Occidente aveva taciuto queste notizie perché evidentemente 300 morti, 300 assassinati, 300 vittime non fanno parte della contabilità della nostra coscienza. Ecco, ma c'è un altro fatto però, le bombe che sono destinate a questo conflitto, l'abbiamo detto nell'introduzione, transitano in Italia, partono dalla Sardegna, caro Mario, dove una fabbrica tedesca ha uno stabilimento e il transito è stato autorizzato dalla difesa italiana. Sentiamo il ministro Pinotti. Per quello che riguarda la questione di queste, che è una, diciamo, una fabbrica che fa componenti per un prodotto tedesco, se non ricordo male, e evidentemente la produzione può essere svolta e l'esportazione può essere fatta, da questo punto di vista, anche se la costruzione avviene in una fabbrica di proprietà tedesca in Italia, comunque è una, tutto regolare per quello che riguarda quelle che sono le autorizzazioni, altrimenti non potrebbero partire come fanno da aeroporti, diciamo, in visibilità. Se ci fosse un traffico di armi, diciamo, da nascondere, non verrebbe fatto in... Quindi opera nel rispetto della legge. Operano nel rispetto della legge. Vabbè, insomma, partono da lì, Mario, dalla tua terra. Ma è una polveriera la Sardegna, tra servitù militari, fabbriche di bombe, poligoni di tiro. Ora, tu sai bene, ancora una volta dico, io sono un realista, però essendo realista dico anche, ma tutto là? Cioè, ma non c'è qualcosa che vi fa saltare un pensiero e dire, ma tutto là? Anche la fabbricazione delle bombe, il passaggio, vabbè, l'imbarco? È proprio complimenti. Cosa bravo, volete che bravo. Vi dica? Un'offesa micidiale al popolo sardo, dai, una cosa vergognosa. Senti, intanto noi abbiamo con noi il generale Mario Alpino, che è stato a capo dell'unità di coordinamento aereo in Arabia Saudita durante la guerra del Golfo. Allora, generale, come mai gli americani vendono armi a un paese così ambiguo come l'Arabia Saudita? Gli americani hanno cominciato subito con un supporto al generale Saleh, ma subito, proprio da subito, quando ha preso il potere. Però le posizioni, adesso però le posizioni si stanno ribaltando dal punto di vista delle alleanze. Gli Stati Uniti hanno fatto un accordo con l'Iran e l'Arabia Saudita è sempre più in qualche modo nell'angolo. Sì, difatti adesso siamo in una sorta di paradosso, ma non solo con lo Yemen, ma con tutto lo scacchiere. Sì, tutto lo scacchiere, diciamo, siamo in questo paradosso perché ognuno fa la guerra. Fa la sua guerra. Ecco, sono generale, delle foglie di fico che sono delle alleanze fasulle praticamente. E quindi in questo senso la guerra mondiale a rate ci sta come spiegazione di questa situazione strategica? Noi intendiamo guerra anche... Probabilmente il Santo Padre intende come guerra anche il terrorismo. Certo, il terrorismo non è guerra, il terrorismo è qualcosa che riguarda la polizia, la guerra. Ma questo è terrorismo o guerra? Questo è terrorismo e guerra, è la famosa guerra ibrida di cui parla la NATO. Esatto. Senta, generale, ancora una cosa, lei dall'ottobre del 90 al marzo del 91, durante la guerra del Golfo, è stato a capo dell'unità di coordinamento aereo proprio in Arabia Saudita. Ecco, ci si può fidare di un paese che ha legami con l'ISIS così forte? Cioè, cosa le ha insegnato quell'esperienza? Ma questa esperienza mi ha insegnato che l'Arabia Saudita è un paese molto serio, che però non rinuncerà mai a quel matrimonio che c'è stato, che è origine proprio dello Stato Saudita, tra la famiglia Al Saud e la famiglia Al Wahhab, già dal 1750. Certo. Quindi è la religione wahhabita che sostiene lo Stato saudita. Ogni cosa che mette in pericolo questo, naturalmente è visto come un pericolo, certo, della monarchia. Quindi, se vogliamo contrastare, per chiudere, l'ISIS, non dovremmo dovremmo tagliare i legami con paesi che lo sostengono? Ma soprattutto dobbiamo tagliare i finanziamenti. Adesso naturalmente la strategia con queste foglie di fico, una si chiama responsabilità di proteggere, l'altra probabilmente si chiama ISIS, perché l'ISIS è un falso scopo per tutti quanti, dietro l'ISIS, come abbiamo detto, fanno la guerra che vogliono, e l'altro ancora è la Libia, per quanto riguarda noi perlomeno. Adesso qualcuno sta dicendo vedo, quindi dopo i nostri tentennamenti qualcosa dovremmo fare. E lei pensa che in Libia, l'Italia... È interrompere dei legami decennali con paesi che sono all'origine del nostro sostegno energetico. E l'Italia cosa dovrà fare in Libia secondo lei? Con questa questa trasmigrazione dell'ISIS dalla Siria a Sirte e questa espansione sia a est che a ovest, qualcuno dice vedo, perché se l'ONU decide, dicevamo, ma che vedo cosa vuol dire senza l'ONU, vedo l'ONU cosa... dice di intervenire, la pacificazione e un governo legittimo in qualche modo ci sarà, ecco che qualcuno dice vedo. Ecco, ma vedo, questo vede, no scusi, per chiudere, generale, per chiudere, questo vedo cosa significa? Qualcuno dice vedo nel senso che adesso cadono un po' di paraventi, noi e quindi ci eravamo un po' dietro la, la risoluzione dell'ONU che sì, pensavamo non arrivasse mai. Adesso credo che le motivazioni, se la risoluzione dell'ONU verrà e se questo governo libico verrà formato, credo che la nostra licitazione verrà presa per buona e dovremo intervenire. 800 24 00 24, numero verde 349 238 66 66, gli sms che sono tanti, che entro, perché questa è una guerra dimenticata, sai che però in realtà è molto, se Fabrizio scrive per uno fra tanti, diciamo, sintetizza un po' il pensiero. Arabia Saudita ambigua con gli americani, tanto quanto storicamente gli americani sono sempre stati ambigui con l'Arabia Saudita, e anche Pietraggio l'abbiamo detto abbastanza chiaramente questo gli americani punto, no? Hanno una linea precisa. Beh, precisa, ma sostengono tutto il contrario di tutto. Poi la storia, poi la guerra, la long durée dimostra lo perché, stato delle cose. Scusate, la fissazione è peggio della malattia. Certo. Ma perché secondo voi i 300 morti dell'altro ieri non ne parla nessuno? Ti scrivono, perché, qui ti scrivono. Perché non fanno parte della contabilità. Ti scrivono buttafuoco, i martiri non sono solo quelli islamici in Nigeria, mentre muoiono migliaia di cristiani per mano di musulmani. Vorrei sottolineare che sono stati ammazzati 300 uomini da altri musulmani. Sì, certo. Io sto dicendo questo. No, allora, ho capito. Vorrei capire perché non è stata data questa notizia. Perché non entra nella contabilità della coscienza occidentale. L'hai detto prima. E perché l'Occidente tutela e protegge la Nigeria? Adesso perché fai il lavoro sporco. Adesso lo chiediamo Obama direttamente. Perché fai il lavoro sporco. La redazione sta cercando Obama. Sì. Intanto, naturalmente, la capitale dello Yemen, per tornare alla nostra guerra, alla guerra in Yemen, la capitale dello Yemen, Sana'a, è un sito classificato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Oggi siamo veramente ingenui e ci continuiamo a chiedere perché vengono distrutte queste ricchezze dell'umanità. È un patrimonio che ha 2500 anni. Giovanni Puglisi è il presidente dell'UNESCO in Italia. Ecco, professore, queste guerre contemporanee, fra i tanti disastri che portano, stanno distruggendo le testimonianze della nostra civiltà. Cosa succede? Ma sta succedendo quello che in maniera sintetica il Papa Francesco ha definito la terza guerra mondiale, una guerra non dichiarata ma combattuta su più scenari di guerra, appunto. Ecco, ma perché l'Occidente è impassibile di fronte a questa distruzione della storia? Per esempio a Palmira, demolita dall'ISIS, le reazioni sono poche. L'Occidente ha preso delle iniziative, a cominciare da quella italiana dei caschi blu della cultura, che denotano soprattutto un'attenzione verso il problema, perché poi operativamente la questione è ancora tutta allo studio, perché mandare dei caschi blu della cultura in una zona di guerra presidiata dall'ISIS è pressoché impossibile. Mandarli a morire praticamente. No, è pressoché impossibile, cioè, visto che non vogliono neanche mandare forze di terra per combattere. Certo, mandare i caschi blu della cultura. È impensabile mandare i caschi blu della cultura. Quindi, però l'attenzione politica da questo punto di vista c'è. Per il resto credo che, come tutte le guerre, l'intreccio è fra, più che dal punto di vista militare, fra la politica e l'economia. Ma la concentrazione sulla distruzione dei simboli della civiltà è qualcosa che è legato alla trasformazione di queste guerre anche in guerre mediatiche? Ha due aspetti la distruzione dei patrimoni culturali. Uno più banale dal punto di vista commerciale, che apparentemente vengono distrutti, poi di fatto i vengono venduti, vengono commercializzati a mercato nero e portano altre risorse a questi banditi. Dall'altro hanno anche invece un altro aspetto, quello della cancellazione della memoria, cioè questo presunto Stato islamico vuole affermare il principio che il mondo comincia da loro. Sto per dire una bestemmia, ante post Christum natum. L'idea che ricomincia la storia da lì. Ricomincia la storia da distruggere... lì, quindi da tutto cancellato. Con l'UNESCO rispetto a questo è vox clamantis, cioè non serve a niente. Io dico sempre che l'UNESCO è come il Papa, ha solo la forza del prestigio morale e dell'autorevolezza culturale. E che iniziative ha preso l'UNESCO concretamente? L'UNESCO è molto attenta sugli scenari internazionali, ha approvato, mi pare all'unanimità, questa iniziativa italiana dei caschi blu della cultura, è molto attenta nelle realtà dove ci sono patrimoni della cultura a presidiare moralmente queste realtà, però l'UNESCO non ha eserciti, non ha truppe. Chiaro. Ecco, ma gli Stati Uniti forniranno, intanto per essere nel concreto, 17.000 bombe all'Arabia Saudita. Ecco, per il premio Nobel per la pace Obama, utilizzare la vendita di armi che poi vengono usate per distruggere non solo vite umane ma anche il patrimonio storico, beh, lì un po' di contraddizione c'è. Io poco fa non a caso le dicevo che tutta questa vicenda si avvita nell'intreccio tra politica ed economia. Le posso rispondere con le parole di un grande filosofo del Settecento, Immanuel Kant, il quale diceva che fin quando c'è nel mondo un miles continuum, che poi è un soldato, sarà impossibile fare una pace perpetua. E dava anche una spiegazione economica che si attaglia benissimo a questo esempio che mi ha fatto lei. E, fin quando c'è un'arma che gira nel mondo, e a questo punto è più economico fare la guerra che mantenere la pace. Certo. Le armi vengono fabbricate, vengono commercializzate. Producono utili. Uso sempre l'esempio per capirci di Bill Gates. Ci immaginiamo un Bill Gates che fabbrica computer per tenerli in cantina. Certo, e le armi vengono fabbricate per essere vendute. E fin quando e quindi c'è sempre bisogno di guerra. Ecco, senta... E intanto, di fronte a questa guerra, quali sono i siti che rischiano di essere colpiti da queste bombe fabbricate un po' da tutti noi? Tutto il Medio Oriente e tutta la costa nord dell'Africa, per la grande tradizione di presenza classica, romana e quant'altro, è una miniera di siti. Cioè, elencarli tutti è impossibile. No, naturalmente. Dobbiamo rassegnarci a questa condizione? Io non mi rassegno, cioè continuo ad esprimere le mie opinioni, credo che la forza delle idee passa attraverso anche il coraggio dell'espressione, poi è quello che fa l'UNESCO in buona sostanza. Una speranza, pietrangelo, uno scenario terrificante, comunque la cancellazione della storia e della cultura. Che sentimenti prova un uomo di cultura come te di fronte a questa... A questo dato inesorabile, sembra. Sai, giugno scorso mi sono ritrovato ad assistere a una funzione bellissima nella Cattedrale del Cristo Redentore a Mosca, struggente, coinvolgente, emozionante, e non mi rendevo conto di un dettaglio, di un fatto, che quella meravigliosa cattedrale era stata una piscina. Ancora prima era stata la cattedrale. Era stata distrutta dai comunisti, era stata demolita, era stata costruita una piscina in quel luogo, e mi sono accorto di come tutto intorno, i conventi, le memorie, le bellezze, le prove della storia e della cultura erano state ridotte in polvere ed erano ritornate. È impossibile cancellare la memoria e la storia fin tanto che ci sarà lo spirito forte a restituirle alla luce, alla preghiera, alla bellezza che ci è proprio. Ecco, Mario, un'ultimissima cosa per chiudere. Ci scrive Giovanni: l'Arabia Saudita detiene il 20%, una cosa che secondo lui spiega un po' la situazione, detiene il 20% della ricchezza americana. Cioè, beh, l'Arabia Saudita, vabbè, i loro fondi, lì, sì, è chiaro che ci sono gli interessi economici e si spiega. Posso fare un appello? Spiega anche una cosa, la spaccatura dell'amministrazione americana di cui si è parlato poco, di cui ha parlato Romano, cioè sì, interessi divergenti. Sì. Posso fare un appello? Certo, informatevi sulla guerra, bene sulla guerra in Yemen, andate sui siti delle Nazioni Unite, usate internet non solo per chiacchierare sui social e così via, andate sul sito del Human Rights Watch, andate sul sito di Amnesty. E questo suggerimento perché? Perché bisogna fare pressione che gli americani smettano di finanziare questa guerra, perché è una cosa folle, folle. Bene, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Mix 24. Allora, oggi Pietrangelo, che ci fai sentire? Eccola. E il fatto è che non si capisce in fondo chi tra l'alba e il cielo sia più forte, perché arriva la luce e si prende la città. Ma poi diciamocelo, è così importante capire a chi dare ragione tra la notte e il giorno, perché anche le onde del mare si frangono e riprendono il loro cammino. E così, così anche i nostri sguardi prendono tutto e poi si smarriscono nei sogni. È successo, caro Giovanni, caro Mario, è successo che stamattina ha chiamato al centralino il barone Ungar Khan, ha chiesto notizie di Corto Maltese e poi ha voluto fare una dedica alla farfalla Come di si un chiama? Giorno di neve. Nome. Senza nome la farfalla? No, si chiama Valentina. Ci sembrava. C'è un ascoltatore che mi ha scritto, mi ha detto, abbiamo capito che c'è una Valentina, ma c'è chi una Valentina è? Voglio che è il felice. Cognome. No, beh, il cognome non si può dare. No, beh, basta sfogliare l'album di Guido Crepa, certo, se c'è anche il cognome. C'è Valentina. Va bene. E tu Mario, con la tua bolla dove vai? Ma facciamo un po' di Europa, ci sono un sacco di cose che stanno andiamo succedendo. Andiamo in Europa allora. Dai. Santa baby, just slip a sable under the tree. Bella, questa è Erta Kitt. Siccome ci stiamo avvicinando sempre di più alle feste, a Natale, quindi Santa baby, ne facciamo una al giorno finché andiamo in onda, insomma, di queste, vediamo come va. Come spende i suoi soldi in Europa? Come li spende? Bene o male, sicuramente sono tanti soldi. C'è online, sempre per il consiglio di non usate internet solo per cazzeggiare su Facebook e Twitter e così via, ma provate anche a documentarvi, eccetera. Tutti, voi e io compreso naturalmente, hanno appena pubblicato un dossier sulla spesa bella grossa, parliamo di 600-700 miliardi di euro, quindi. Però l'Unione finanzia il tutto, cose utili, cose meno utili, i cartoni animati per gli agricoltori che vogliono fare business, il business plan veramente, forse si può evitare, però c'è una sorpresa perché al primo posto c'è la Polonia. Tra quelli che prendono soldi. Tra quelli che prendono molti soldi, finanziamenti 86 miliardi, sono molto bravi i polacchi a beccare i soldi perché sanno fare i piani. Noi però siamo secondi, quindi è noi l'Italia. Lo quindi dico, la retorica che non prendiamo i fondi non è vera. Non è vera, stiamo migliorando. C'è ancora un lieve sbilancio tra quello che diamo ogni anno e quello che si investe, ma sono di pochi miliardi, ma in realtà è dovuto al fatto che noi non sappiamo pianificare bene la spesa. Quando riusciremo a fare questo, noi avremo un grandissimo beneficio. E si vede da queste cose, per cui a me gli euroscettici mi devono solo dire come recuperano questi soldi che noi perdiamo, poi per me va tutto bene, si può fare qualsiasi cosa, però l'importante è che il saldo torni, qualche maniera, che sia attivo, non lo è ancora, ma lo diventerà. Va bene, Salamino. Doppio pesismo, pesi doppi, tutto di doppio, tutto di due, chi di dimissioni ferisce, di dimissione si può dire friggisce, bollisce, patisce, ma insomma bisce, insomma le dimissioni. Ma di le chi? Dimissioni. Come? Di chi? Allora, Matteo Renzi, oggi, per tramite dei suoi giornalisti di fiducia. Ma perché, via. Davvero. Dai. Non ci credo. Lui non viene solo qua. Fatti delle domande. Fatti delle domande. Ma non l'abbiamo mai invitato. No, sono tre anni. Tre che anni. Non viene, non è mai venuto. Ma mai, non cosa ancora, strana. Ma c'è, colpa di c'è Sensi che ci sta lavorando. Trattando. Non viene. Allora, per tramite dei suoi giornalisti di fiducia, fa sapere di voler chiudere in fretta la vicenda di Banca Etruria, anche perché quelli del Giglio Magico fanno sapere per tramite dei loro giornalisti di fiducia potrebbe arrivare nonna da zia, da padre, da frate, da sora, da mamma, da cane, e insomma quelli del Giglio Magico e tutto il suo manicomio di padre, da frate, da sora sono preoccupati perché potrebbe arrivare un avviso di garanzia al padre di Maria Elena Boschi. Ma qua sempre di padre si parla perché è sempre una questione di doppio pesismo e dobbiamo rendere onore, Giovanni, l'onore delle armi a uno che abbiamo sempre sfottuto, a uno che abbiamo sempre... per andarmene. Tu te ne puoi anche andare, Giovanni, sto tu per resta. Alzarmi in piedi. No, ma no, dai, oggi diciamolo che Roberto Saviano sulla Repubblica, sulla questione del babbo, ha detto una cosa giusta, dice quello dobbiamo reagire, no? Cioè tenetelo che dobbiamo reagire. E allora, siccome dobbiamo reagire, presuppone un movimento, posso suggerire alla regia un twist che ci accompagna? Ecco, perché noi dobbiamo reagire, quindi però ci dobbiamo anche trattenere. Allora, trattenendoci e reagendo, che cosa succede? Che succede? Che ieri col sorriso migliore, col sorriso dei suoi giorni più che migliori, Maria Elena Boschi ha ricevuto la benedizione di sua eminenza o sua eccellenza il vescovo Nunzio Galantino. Le sono vicino, ha ripetuto, che è cosa ben diversa dalla ormai dimenticata bestemmia cosiddetta di Silvio Berlusconi, che era una barzelletta, ve la ricorderete, che venne derubricata da Monsignor Fisichella con il bisogna contestualizzare. Oh, cosa accadde? Tutti i giornali, tutti i talk, tutti i più autorevoli venerandi guru furono contro il Monsignore e contro il barzellettiere. Oggi tutti sono vicini a Galantino, certo, oltre ad essere vicini a Maria Elenuccia nostra. Maria Elena, ma capisco, è doppio però pesismo, e siccome io voglio tanto bene a Nunzia De Girolamo, non posso che ripetere con lei quello che ha detto nell'intervista: essere di sinistra, insomma, è sempre più facile che essere di destra. Sì. Vabbè, uno molti si trova di sinistra lo dicono anche loro oramai. E, solo Saviano. Su se stesso. Solo Saviano. No, però, solo Saviano, memore della sua antica fede, ha trovato questo risveglio. Detto ciò. Allora, ragazzi, parliamoci chiaro. Sta musichetta la voglio sentire. Ah sì, perché metti caso ci fosse stato il governo Silvio Berlusconi, metti caso che la banca fosse stata col papà di Mara Carfagna, per esempio, ci sarebbero le barricate per strada. Ci sarebbe non ora qua, però io sono sicuro dell'onestà intellettuale di Maria Elena Boschi. Sì, era già intervenuta. E siccome il paragone è stato fatto, vi ricordate quando ai tempi ci fu la questione di Anna Maria Cancelliera al governo Letta, no? Io dico alla domanda: cosa faresti al posto della Boschi, che coincide, cosa faresti al posto della Cancellieri? Bene, lei ci ha dato una risposta, ascoltiamo. Perché non è tanto capire se ci debbono essere o meno le dimissioni del ministro Cancellieri, se viene meno la fiducia nei confronti del governo. Il punto vero è che è in gioco la fiducia nei confronti delle istituzioni. Il ministro Cancellieri può decidere di dimettersi, il presidente Letta può decidere di chiedere le dimissioni, come ha fatto in passato in altre occasioni con Josefa Idem. Nell'una e nell'altro l'hanno fatto ad oggi, quindi non spetta a me dire si deve dimettere. Io posso dire che al suo posto l'avrei fatto, mi sarei dimessa. Il punto grave è che ancora una volta si è dato l'immagine di un paese in cui la legge non è uguale per tutti, ma ci sono delle corsie preferenziali per gli amici degli amici. Al punto di prima, dobbiamo reagire, dice il papà del premier Matteo Renzi. Dobbiamo reagire o non dobbiamo reagire? Adesso la risposta la affido a quello che nel suo intimo e nel profondo del loro cuore, sia Matteo Renzi che Maria Elena Boschi hanno nei confronti del loro papà. Ascoltate. Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha. Lo prendi, papà? Sì. La legge sangue nel cuore comunque. Sti gufi. Sto proprio sanguinaio perché, vabbè, mamma mia. Cioè, Saviano, io avrei dovuto uscire da questo. No, studio. Vabbè. Scusa, è onestà intellettuale, Mario. No, che ti contraddittigue, sei un liberale. Dovrebbe essere normale. 800 24 00 24, esatto. Numero verde 349 238 6666. Sento borbottare sms, sì, canzonieri. Però l'archivio sulla Boschia ha funzionato. No, sì. Funzionano sempre gli archivi. L'archivio... Perché un popolo che non ha memoria, niente, zero, non ha futuro. Zero. Se non hai memoria, non hai futuro. È così. Mario. Nella luce uniforme, dalle navi alla città, solo il passo che alla notte solitario si percuote per la notte, dalle navi solitario ripercuote, così vasta, così ambigua, per la notte così pura, l'acqua. 800 24 00 24, numero verde 349 238 666, aiutino sms, aiutino velocissimo. Non è Carmelo Bene, non è Carmelo Bene, ed era suonato, ed era suonato. Perugina, il dono delle ore liete, presenta Vittorio Gassman in Poesie d'amore. Benedetto sia il giorno, il mese e l'anno, e la stagione, il tempo, e l'ora, il punto, e il bel paese, e il loco ov'io fui giunto, dai duo begli occhi che legato m'ha. Poesie d'amore, un modo altissimo per dire ti amo. Baci Perugina, un modo dolcissimo per dire ti voglio bene. Un messaggio d'amore in un cioccolatino, un claim, come diremmo oggi, vincente, intatto dopo quasi un secolo. Tutto ha inizio a Perugia nei primi anni del Novecento, una piccola azienda dolciaria, la fantasia e il coraggio di una donna sorprendente, Luisa Spagnoli. Anni dopo, in piena autarchia fascista, Luisa utilizza il pelo dei conigli d'angora per creare capi d'abbigliamento femminile. Nasce così una realtà industriale e un marchio ancora oggi leader nel mondo. Luisa Spagnoli, le operaie e le altre. Una storia d'altri tempi che ha il fascino di una moderna fiction. Una manager di successo, una grande dinastia imprenditoriale, un amore proibito, qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Mix 24. Mario, bolla ancora? Sì. Questo pezzo è bellissimo, senti. Pat Metheny, Last Train Home, senti, senti la ferrovia, la leggenda, mamma mia, la storia, senti. Wow, allora, niente treno, niente oro. Ve lo ricordate voi il treno che era nascosto in una miniera? Il treno nazista carico d'oro, carico, certo, di gioielli. Insomma, certo, si stava per scatenare. Sì, si stava per scatenare una caccia all'oro, neanche come se fosse i tempi del Klondike. Bene, non esisteva. Questa è la conclusione di due scienziati. E fa il paio con una storia. Ma che noi... non esisteva, come fanno a dirlo? E lo dicono perché hanno fatto le misurazioni sulle onde elettromagnetiche, non ho capito bene, ma pare che sia così, pare, forse sembra, te la ricordi quella gag? Sì. E fa il paio d'altronde con una cosa che mi ha ricordato una nostra lettrice che mi ha scritto via email, ed era la storia del sommergibile russo, no? A cui gli svedesi davano la caccia tutti i giorni. Non c'è mai stato neppure quello. A quelle latitudini mi sa che il freddo ghiaccia notevolmente i neuroni, eh? Bene, e allora, indovinato qualcuno? C'è qualcuno che ha indovinato? Ancora no? E allora intanto con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, 26 novembre 2015. Uno studio clinico controllato sul mantenimento della pressione in modo intensivo rispetto al mantenimento standard. Il problema dell'ipertensione è sempre lo stesso. Quali sono i valori giusti? Cioè, quanto bisogna averci di pressione? Bisogna rimanere su 120 su 80? Si può avere 130 su 80? 130 su 90? 150 è l'eventuale valore limite? Bene, sono uscite le raccomandazioni di quello che è il comitato internazionale più accreditato, il JNC, e sono le ottave raccomandazioni, dove per la prima volta si dice che se si hanno più di 60 anni, il goal, la misurazione che si deve rispettare arriva fino a 150. Bisogna stare sotto i 150, cioè. Nel contempo sono uscite fuori anche le raccomandazioni dell'American Heart Association e dell'American College of Cardiology, cioè tutti i cardiologi americani, che dicono, però attenzione, se avete un alto rischio di cardiopatia ischemica dovete tenere la pressione a 130 su 80 e se avete uno scompenso di cuore a 120 su 80. Quindi, facendo due conti, 120 su 80 per chi sta veramente male per uno scompenso di circolo, 130 su 80 per chi ha un rischio in famiglia di cardiopatia ischemica, la malattia che genera l'infarto, per capirci, se avete più di 60 anni potete stare sotto i 150, cioè averci come valore massimo i 150. Lo studio in questione teoricamente voleva andare a verificare in una popolazione precisa con questo rischio cardiovascolare se bisogna essere così strenui, cioè bisogna mantenere la pressione sotto i 120 su 80, cioè sono uguali a quelli che hanno una grave malattia di cuore. E beh, lo studio ha detto che bisogna arrivare fino a fare addirittura tre farmaci per mantenere la pressione, se con un rischio di cardiopatia ischemica, sotto i 120 su 80, pagando dei prezzi che sono una serie di effetti collaterali come ipotensione, sincope, anormalità degli elettroliti, eccetera. Cioè a dire che bisogna conquistarsi una pressione bassa nonostante i possibili effetti collaterali. E per chiudere, Gloria Guerrera, come sempre, ha scelto la canzone di Nina Zilli, Se bruciasse la città.